Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: la borsa continua a rafforzarsi, Piazza Affari più 2,30%, Parigi più 2,13%, Francoforte più 1,35%, Londra più 1,33%. Benissimo oggi soprattutto i titoli bancari: Unicredit più 3,90%, Obibanca più 3,90%, Intesa più 3,40%, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi, perfino Monte dei Paschi oggi recupera più 3,20%, Mediobanca più 3,30%, Pop Milano più 2,70%, Pop Emilia Romagna più 2,60%, e poi Monte dei Paschi sui diritti più 2,5%, e direi che abbiamo praticamente finito. Ah no, manca il Banco Popolare più 2,20%. Che cosa è successo? Beh, prendono un po' atto le borse come pretesto anche della proposta, o meglio del fatto che sembri più probabile un accordo sulla Grecia. Il generale invece ancora risente della presentazione del piano industriale con 5 miliardi di dividendi da qua entro fine del 2018, un piano molto ambizioso, qui appunto presentato oggi a Londra, e il gruppo Generali prevede 5 miliardi di dividendi, ecco perché il titolo poi sale a del 2,82%. Tra le banche vale la pena ricordare come sostanzialmente solo la Cassa di risparmio di Genova perda, e non poco, perde il 4,35% dopo indiscrezioni di un aumento di capitale a forte sconto, un po' diciamo quello che è successo, anche se i paragoni sono assolutamente impropri, col Monte dei Paschi. Cito anche Finmeccanica, perché oggi su Sole 24 Ore è uscita l'indiscrezione di una possibile vendita di Aviospace, e il titolo ne risente positivamente per quello che riguarda appunto anche Finmeccanica, che guadagna il 4%, in questo momento è il miglior titolo in assoluto dell'S&P MIB. Questo è il fronte borsistico, che significa anche il fronte greco. Oggi parleremo, come promesso, di pubblica amministrazione, perché è in corso il forum più importante per la pubblica amministrazione italiana, si chiama Forum PA, Forum della Pubblica Amministrazione. Intervenuto anche il ministro all'economia Piercarlo Padoan, che ha parlato anche di Grecia ma anche di pubblica amministrazione. Cercheremo di capire a che punto sia, diciamo, e che cosa preveda soprattutto la riforma della pubblica amministrazione, che è giunta all'esame della Camera dopo il passaggio in Senato. Ieri i lavori li ha aperti ufficialmente il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia, anche contestata, ma questo diciamo fa parte del luogo e anche della democrazia. Per quello che riguarda la Grecia, un po' di pazienza, vedo che alcuni già mi scrivono. Poi parleremo del nostro export, perché è uscito e lo sta presentando in questi minuti la SACE, che è il gruppo assicurativo finanziario della Cassa Depositi e Prestiti, che sostanzialmente assicura il credito e offre assistenza agli investimenti, anche protezione agli investimenti delle imprese italiane. Ha praticamente operazioni assicurate per 70 miliardi, come portafoglio delle operazioni assicurate per 70 miliardi di euro. Dicevo, sta presentando in questi minuti alla borsa italiana il nuovo indicatore per quello che riguarda la qualità e le opportunità previste nell'export nei prossimi anni. È un indicatore che si chiama Export Opportunity Index, che riserva delle sorprese. Ne parleremo con il ministro delegato della SACE Castellano, perché non pone al primo posto solo, come potrebbe essere immaginabile, le economie emergenti e da questo punto di vista i paesi che hanno maggior tasso di crescita sul PIL. Ci sono anche tanti paesi di carattere europeo. E poi la vicenda che riguarda il mondo del pallone. Vuol dire, che cosa c'entra con Focus Economia? Beh, insomma, l'accusa degli Stati Uniti di corruzione ai dirigenti di chi governa il calcio mondiale, l'arresto fatto dalla polizia svizzera a Zurigo di 7 persone, tra cui 2 vicepresidenti, nell'albergo in cui si svolgeva il meeting annuale, E poi il numero uno della federazione, Sepp Blatter, indagato dall'FBI ma non accusato di corruzione. Tutto il tema ruota attorno non a una cattiva gestione così fatta a caso sulla scelta dei mondiali, ma di corruzione vera e propria. I dirigenti della FIFA sono sospettati di aver accettato dagli anni 90 ad oggi tangenti per 100 milioni di dollari. Ora, un conto è polemizzare sulla FIFA, e molti ne hanno scritto in questi mesi, anche le ipotesi che già erano state avanzate di una scelta del Qatar non esattamente così limpida. Altra cosa è che vengano arrestati i manager e indaghi l'FBI. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Riguardo la Grecia, intanto la Banca Centrale Europea ha lasciato invariata a 80 miliardi di euro la linea di credito di emergenza, la liquidità di emergenza, si chiama ILA, alle banche elleniche. Ha lasciato sostanzialmente invariato questo ammontare, mentre da più fonti si fa notare come gli istituti greci hanno liquidità per soli 3 miliardi di dollari. Oggi sono ripresi i negoziati con il Brussels Group, quello che ha preso il posto della Troica con il governo di Atene. Ci si aspetta un accordo entro il fine settimana. Si lavora comunque a un accordo tecnico, non a un taglio delle pensioni. L'accordo prevederebbe una riduzione del surplus primario, cioè di ciò che resta nelle casse del governo dello Stato greco al netto di entrate e uscite prima di pagare gli interessi sul debito, e quindi di non chiedere alla Grecia un surplus così alto come era stato chiesto prima, il che permetterebbe maggiore margini di investimento e di operazione anche di politica economica per il governo greco. Dicevo, oltre a questo, nessuna misura recessiva, una revisione dell'IVA e una intesa su una riduzione del debito greco a questo punto nel medio termine. Secondo alcune fonti del governo ellenico, il vero problema per chiudere la trattativa non sarebbero le istituzioni europee e i paesi europei, ma sarebbe proprio il Fondo Monetario Internazionale che si è messo di traverso, e senza questo ruolo, questo stop, questo ostacolo rappresentato dal Fondo Monetario Internazionale, l'accordo si sarebbe già chiuso. Intanto però è intervenuto anche il segretario al tesoro americano, Jacob Lew, il ministro, diciamo, all'economia americano, che ha detto la politica del rischio calcolato è un gioco pericoloso. Ha in qualche modo richiamato e bacchettato gli europei: attenzione a scherzare col fuoco, traduco io, e quindi ognuno faccia un passo, questo invece è quello che ha chiesto, e quindi ognuno deve fare un passo indietro e considerare la prossima scadenza come l'ultima scadenza e risolvere la crisi greca. Il rischio, continua il ministro dell'economia americano, di passare da una scadenza all'altra aumenta i rischi di un incidente. Ripeto, il titolo potrebbe essere: cari europei, state scherzando col fuoco, continuate a rimpallarvi le responsabilità per risolvere la situazione greca. Il monito riguarda anche il governo greco, ma tutte le parti in causa. Il portavoce però del Ministero delle Finanze tedesco, Martin Jäger, che è il portavoce di Schäuble, ha detto: non mi aspetto critiche da parte degli americani al prossimo vertice dei G7 di Dresda. Ci saranno domande e risponderemo con pazienza in modo aperto. Beh, insomma, lui se le può anche non aspettare, ma quella di Jacob Lew, se non è una critica, ci assomiglia molto. Quando dici alle parti: fate un passo indietro, smettetela di giocare alla politica del rischio calcolato, è un gioco troppo pericoloso, non so come, sicuramente non è un complimento, a mio avviso è anche una critica. Comunque, infatti, poi oggi Schäuble è tornato a parlare, ha detto: Atene dice che vuole mantenere l'euro ma non vuole più il programma che prevede gli aiuti in cambio delle riforme, le due cose non possono stare assieme. Che ha continuato poi Schäuble: noi abbiamo detto vi aiutiamo ma voi dovete reggervi di nuovo finanziariamente sulle vostre gambe. La Grecia poi ha contato Schäuble al numero maggiore di dipendenti statali dell'area euro in proporzione alla sua popolazione. e ne vuole assumere di più, è uno dei salari minimi più alti. Allora, a cui bisogna anche capirsi, perché a parte che Schäuble, cioè, qui a mio avviso si sta delineando anche un problema nel governo tedesco. Ma conta più la Merkel o conta più Schäuble? Perché le vere prese di posizione, dichiarazioni, l'uscita dall'euro, sì, si può ragionare di una Grecia che esce dall'euro, le sta facendo il ministro delle finanze. Ora, in un governo normale, il ministro delle finanze sta più zitto e conta il ministro e conta il cancelliere, in questo caso Angela Merkel. Però notiamo un peso molto forte di Schäuble, che sappiamo benissimo essere il rappresentante dell'ala più oltranzista, più dura della CDU, quindi ha un grosso peso politico, anche perché quando parla di dipendenti pubblici deve Schäuble verificare bene quello che dice con i dati dell'OCSE. Lo dico con massimo rispetto, perché l'OCSE ha fatto notare che il numero di impiegati pubblici in Grecia rispetto al totale degli occupati è basso, ma è più basso anche di quello tedesco. Gli statali sono l'8% del totale, in Germania sono il 10%, in Italia siamo al 15% e in Francia al 24%, così come in Danimarca. Quindi dire che la Grecia ha troppi statali che poi siano inefficienti, che nel passato la Grecia abbia avuto dei contratti per il pubblico impiego allucinanti nella loro, diciamo, spreco di risorse, che manchi la lotta all'evasione, che ancora gli armatori e intere parti del paese sfuggono ogni controllo del fisco, è verissimo. Però non si può dire che ha troppi statali rispetto ai lavoratori, perché ne ha la metà di un paese come l'Italia. È sereno però il ministro all'economia per Carlo Padoan, che dice: attenzione, l'impatto sui mercati di un eventuale default greco, che non vuol dire l'uscita della Grecia dall'euro, vuol dire che la Grecia non riesce a ripagare le rate, sarebbe un impatto comunque limitato. Ci potrebbero essere effetti sui mercati, ma questo è una normale attesa, ma io ritengo che sarebbero molto limitati. Ancora una fonte OCSE invece oggi riguarda l'Italia, dove quando parliamo della riforma della scuola, sapete cosa ne pensiamo, che si è fatto tanto caos per il prestito, la chiamata diretta sul numero marginale del corpo docenti, il preside satrapo, il preside dittatore, quando a mio avviso nella scuola vanno introdotti i principi di managerialità, non è una brutta parola, di responsabilizzazione anche del preside, che poi deve essere valutato appunto dagli ispettori, e la responsabilizzazione e di tutela verso quello che diceva il nostro ospite due giorni fa, lo chiamava il cliente della scuola, può non piacere, mettiamo le virgolette, e che è lo studente, non il corpo docenti. Beh, perché lo dico? Perché mi sarebbe piaciuto vedere le stesse proteste, non per la maggiore autonomia data al preside, che ripeto ha autonomia molto molto parziale, e per l'introduzione di fatto di un'idea di merito, io scelgo chi ritengo più bravo, poi se sbaglio pago la mia scelta, e mi piacerebbe che invece i sindacati avessero fatto le stesse proteste per quello che scopre l'OCSE oggi, e cioè che in un paese come l'Italia, che è penultima tra tutti i paesi OCSE per l'occupazione giovanile, il tasso di occupazione giovanile è sceso tra il 2007 e il 2013 di 12 punti percentuali al 52,79, l'Italia ha il boom di giovani NEET, quindi né occupati né iscritti a scuola o né in fase di apprendistato. Siamo al 27% sotto 30 anni. È il record dei paesi OCSE, ma soprattutto è ultima in alcune competenze che si dovrebbero apprendere a scuola, e cioè rispettivamente la lettura e la matematica. Allora, praticamente i dati sono del 2012-2013. La percentuale più elevata di persone con scarse abilità in matematica tra gli adulti, 29,7%, e la seconda tra i giovani in età lavorativa, 25,9%, la percentuale che ha appunto scarse competenze di lettura e di matematica. Ora, a questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Se i nostri giovani sono agli ultimi posti nella matematica e nella lettura, qualche responsabilità il corpo docenti, non i docenti bravi, ma il meccanismo in cui è strutturata questa scuola, ce l'avrà. Abbiamo letto l'altro ieri della fuga di studenti di iscrizione delle università del sud, perché perfino i giovani si rendono conto che le università che non funzionano li consegnano alla disoccupazione, quindi c'è una nuova migrazione di studenti dal sud verso l'università del nord, mentre al nord chi può va a studiare all'estero direttamente. Ora, in tutto questo, al di là del rivendicare l'autonomia, il posto fisso, giustamente per i precari l'assunzione a ruolo, ma un po' di autocritica, i sindacati che rappresentano la scuola la vogliono fare. Comunque, 100 secondi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Sono i dati dell'OCSE a indicare oggi come il lavoro giovanile, o meglio la mancanza di lavoro giovanile, stia rappresentando un problema sempre più grave per tutti i paesi, in qualsiasi parte del globo. Ma colpisce che in questo panorama sia proprio il nostro paese a evidenziare le difficoltà maggiori. Negli anni della crisi, tra il 2007 e il 2013, solo la Grecia ha fatto peggio di noi. Il tasso di giovani fino a 29 anni che hanno un lavoro è precipitato dal 64 al 52%. Un andamento molto negativo che peraltro si riflette anche tra chi giovane non lo è più. Così nella fascia di età tra i 30 e i 54 anni il tasso di occupazione è sceso dal 75% del 2007 al 71% dell'anno scorso, e anche in questo caso siamo in coda alla classifica dei paesi OCSE. Tra i tanti dati dell'organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico, comunque colpisce sempre quello che dei cosiddetti NEET, quelli che definiamo gli inattivi, vale a dire i giovani fino a 29 anni che non sono occupati, che non studiano e che non stanno facendo forme di training o apprendistato. In Italia sono il 26%, un giovane ogni quattro. Il nostro paese, è evidente, oltre a un problema occupazionale generale, ne ha uno specifico legato ai giovani e a questo esercito di sfiduciati, ai quali il governo deve dare risposte concrete, perché quelle previste dal piano chiamato Garanzia Giovani non stanno producendo i risultati necessari. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su Radio24.it e RDS.it. Ascoltatore, basta Barisoni, scelte politiche basate su ricerche statistiche. E su cosa le basiamo le scelte di politica economica? Sull'intuizione? Così, sull'ispirazione artistica? Allora, io non ho mai detto che sia colpa dei docenti, dei sindacati e basta la situazione in cui versa la nostra formazione scolastica. Che tra l'altro, lo dico ai sindacati, a tutta la sinistra che ha difeso a spada tratta le manifestazioni contro la riforma, ripetiamo una volta per tutte: una scuola inefficiente che non forma va a vantaggio dei più ricchi e a svantaggio dei meno abbienti, perché chiaramente chi ha una disponibilità economica manda i figli a studiare da un'altra parte, l'ascensore sociale di un paese si blocca, perché chi ha meno disponibilità economica, che era proprio lui che attraverso la scuola riusciva ad avere quello che si chiama ascensore sociale di intergenerazionale, si blocca, perché il povero va in una scuola che non forma e quindi non muove il suo status sociale, e chi ha la facoltà di spendere i soldi manda i figli a studiare altrove. Quindi dovrebbe essere proprio dalla sinistra più radicale, dal mondo del sindacato più radicale, che la domanda di una scuola più meritocratica, più selettiva, più dura, in cui gli insegnanti che non sono capaci vengono cacciati, si può usare questa parola? Anche nel pubblico impiego? Oppure vengono comunque penalizzati se non cacciati e premiati con bonus e quant'altro gli insegnanti più meritevoli. Nessuno ha detto che sia colpa solo loro, ma se la scuola versa in questo stato, possiamo dire che c'è anche una responsabilità dei sindacati della scuola e di una parte del corpo docenti che non ha mai voluto introdurre il merito, perché si teme sempre che il merito vada contro di te, e già uno che ha la coda di paglia su questo dovrebbe dirlo. Allora, diciamo, o è solo colpa dei governi? Delle riforme della scuola, tutte sempre osteggiate, perché io vi dico, sarò ignorante, ma in 15 anni che conduco questo programma non ho capito quale sia la riforma della scuola che vorrebbero quelli che poi manifestano ogni volta che c'è un tentativo di riformare la scuola. E così entriamo a pie pari nel tema anche del pubblica, della pubblica amministrazione, visto che da ieri a domani si svolge a Roma la 26esima edizione del forum della pubblica amministrazione. 23.000 gli iscritti, che sono molti più rispetto all'anno scorso quando furono 15.000. Le adesioni delle pubbliche amministrazioni che acquistano spazi e stand sono in netto calo, e qui c'è un problema anche di conti pubblici. Ieri ha inaugurato i lavori il ministro Marianna Madia. Allora, oggi è intervenuto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, mentre ringrazio il presidente del forum PA, come si chiama appunto il forum della pubblica amministrazione, Carlo Mocchi Sismondi, che ci ha appena raggiunto in collegamento. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, il ministro Padoan, che ha sottolineato giustamente l'importanza della manifestazione e dell'operato dell'amministrazione pubblica, e poi ha anche ricordato il ruolo chiave della pubblica amministrazione per dare attuazione concreta alle riforme che dovrebbero a loro volta rilanciare l'economia. Questo forum PA è un evento sempre più importante per migliorare la qualità dei servizi che la PA offre ai cittadini a tutti i livelli, basata sulla crescente trasparenza e sull'uso sempre più intenso di tecnologia. Quindi il mio grande ringraziamento a tutto il personale della PA, che è elemento fondamentale della politica delle riforme del governo. La strategia economica del governo si articola su tre pilastri: le riforme strutturali, gli investimenti e una politica di bilancio orientata alla crescita. Fare le riforme strutturali significa anche cambiare comportamenti, semplificare, ridurre gli ostacoli. Sostenere gli investimenti significa anche fornire informazioni alle imprese e servizi alle imprese. Migliorare la finanza pubblica significa anche, o forse soprattutto, migliorare i meccanismi di allocazione. Perché dico queste cose abbastanza banali? Perché hanno un punto in comune. Per fare tutte e tre queste cose ci serve una pubblica amministrazione efficiente al meglio e ci serve il massimo di trasparenza. Così appunto il ministro dell'economia. Il discorso che facevamo per la scuola, che una scuola inefficiente che non prepara va a svantaggiare chi è già svantaggiato dalla condizione sociale, è un principio che la sinistra ha completamente smarrito in questi anni, e quindi e va a avvantaggiare chi è già avvantaggiato nella scala sociale, perché tanto vale anche per la pubblica amministrazione. Cioè, una pubblica amministrazione che non funziona crea un danno più forte ai più deboli, perché chi è forte troverà altri mezzi, e tra l'altro apre le praterie per la corruzione, per la tangente, per la pratica che deve arrivare sopra il tavolo e quant'altro. Quindi l'inefficienza e la non professionalità e la non meritocrazia sono sempre una fregatura per i più deboli. Dovrebbero ricordarsi anche quelli che, avendo letto male alcune cose, vanno a protestare contro l'introduzione di elementi meritocratici. Vi fate del male da soli. Allora, presidente Mocchi Sismondi, poi dopo il metro e la pubblicità cerchiamo di capire che cosa prevede anche la riforma del ministro Madia. Ma secondo lei si riuscirà a introdurre il tema del merito nella pubblica amministrazione in maniera ancora più forte, sì o no? Sì, sicuramente sulla dirigenza. Un po' meno convinto sul comparto, diciamo, ci sono gli strumenti un po' più deboli. Sulla dirigenza mi sembra che la legge introduca un principio molto semplice e anche molto normale in tutto il resto del lavoro, tranne che nella pubblica amministrazione. È il dirigente chi dirige, chi non dirige non è dirigente. E quindi disaccoppia lo status del dirigente dal suo incarico di dirigere. Fino adesso uno arrivava... Ma guarda che se arrivasse un marziano e sì, ci ascoltasse in questo momento, penserebbe che io e lei siamo drogati e ubriachi o tutte e due, allora, cose. No, io ho capito benissimo, però che si debba arrivare a una legge di riforma perché il dirigente della pubblica amministrazione sia chiamato alla sua responsabilità di dirigere e quindi abbia un altro percorso. Cosa succedeva adesso? Che il dirigente della pubblica amministrazione aveva tutti i meriti e i vantaggi di essere dirigente, ma era licenziabile, diciamocela tutta. Quindi, se non aveva più il contratto, se non aveva più un incarico del dirigente, rimaneva dirigente, quindi poteva, esatto, avere un incarico di studio, ma il suo contratto rimaneva definitivamente quello, per esempio, dirigente dell'ultima fascia con, non so, cito le agenzie fiscali, 220.000 euro di stipendio medio annuo, e se poi non dirigi più, comunque mantieni il tuo posto. Questo cambia completamente con la legge, tu sei dirigente finché hai un incarico di dirigere. Questo incarico ti dura 4 anni, dopo 4 anni può esserti al massimo prorogato per altri 2, poi vai a evidenza pubblica, quindi devi dimostrare di essere ancora più bravo e più adatto per prendere questo posto. Questo cambia, sembra una cosa da poco, ma guardi, è una rivoluzione copernicana. Il pesce puzza dalla testa, e una volta che i dirigenti potranno, se passerà la legge, potranno essere licenziati, e verrà introdotto il nuovo unico ruolo e gli incarichi saranno al massimo di 4 anni rinnovabili una sola volta, sono 65.000 manager pubblici interessati, concentrati soprattutto nella sanità, 22.000. Ora, anche qui, molti di questi sono bravi e bravissimi. Assolutamente. Ci mancherebbe. Il problema è che tu in questo momento non riuscivi a distinguere né a premiare, o meglio a penalizzare, i meno bravi, perché tanto uno restava dirigente comunque ed era il licenziabile. Ora, se uno è dirigente deve essere anche licenziabile, se no fai il dipendente, non fai il dirigente. Resti con noi, Mocchi Sismondi, abbiamo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. minuti. Allora, alcuni scrivono: ma non abbiamo mai detto che la colpa della crisi sia del sindacato. Ringrazio chi mi chiede di riposare un po' più di notte, di dormire meglio, ma non abbiamo mai detto, se questo vale comunque. Così come dice: date tutta la colpa della crisi al sindacato, la crisi è nata per colpa di quell'economia che voi difendete. Senta, io non so dove fosse lei quando noi attaccavamo tutti i giorni la finanza derivata e deviata americana, abbiamo fatto sentire interi pezzi di film, di documentari, di analisi, di critiche. No, non mi sembra che abbiamo difeso Wall Street in quel modo. Dopodiché, non cambiamo discorso. Si può dire che se il merito non è entrato dentro la pubblica amministrazione c'è una grossa colpa anche del sindacato e c'è una grossa colpa anche dei dipendenti. Merito vuol dire assunzione di responsabilità, premiare qualcuno e penalizzare qualcun altro, non è che vuol dire penalizzare tutti. Comunque, torniamo al presidente del forum della pubblica amministrazione. Diceva che la novità più grossa della riforma, che il ministro Madia ha detto che dovrebbe diventare legge entro l'autunno, è la possibilità di licenziare i dirigenti, che tra l'altro quelli nostri di prima fascia nella pubblica amministrazione hanno retribuzioni pari a 10 volte il reddito pro capite italiano, contro le 5 volte della Gran Bretagna, le 5 volte della Francia o le 4 volte della Germania, paesi in cui è noto che la pubblica amministrazione funziona peggio che da noi. Poi ci sono Mocchi Sismondi, le azioni disciplinari e altri elementi come il garantire l'accesso a internet negli uffici pubblici. Sì, diciamo che poi ci sono altri due pilastri di questa riforma. Uno è la pubblica amministrazione digitale, e qui è previsto un diritto dei cittadini e delle imprese di avere una cittadinanza digitale, quindi di raggiungere la pubblica amministrazione attraverso gli strumenti digitali, così come noi tranquillamente ci compriamo, facciamo home banking o ci prenotiamo un albergo o compriamo su Amazon, dovremmo poter raggiungere la pubblica amministrazione in maniera altrettanto semplice. E terza grande pilastro è quello di ridurre tutti i rami secchi. Noi abbiamo qualcosa come 7.000 partecipate, di cui probabilmente ce ne sono qualche migliaio che non hanno neanche un dipendente, hanno solamente i posti di consiglieri, e abbiamo un numero molto alto di uffici periferici dell'amministrazione centrale dello Stato, circa 65.000, cioè magari alcune saranno anche giustissime, se un ambulatorio sotto casa guai se me lo tolgono, ma in linea di massima non è forse necessario avere 65.000 unità fisiche censite dall'ultimo censimento Istat dello Stato centrale lo Stato spende 2 miliardi di euro l'anno di affitto, cioè, ecco, mi sembra un po' tantino lì, per esempio, che si può fare, si sta facendo con l'Agenzia del Demanio un'opera, sta cominciando un'opera immane di razionalizzazione, ma lì c'è una quantità di risparmi giganteschi. Devo dire che l'ufficio territoriale di governo, cioè mettere per esempio in ogni capoluogo di provincia un solo ufficio che prende tutti gli uffici di governo, e cioè, avremmo risparmiato così accorpi il Ministero dell'Economia, ma vai in un unico sportello in cui tu c'hai l'economia, il rappresentante del Ministero del Lavoro, dei beni culturali, eccetera, senza dover avere ognuno un ufficio con una sede, una segreteria. Sì, Sismondi, lei sa meglio di me che tante sedi vuol dire posti in più, vuol dire anche accordi, come a Roma ci insegnano, con immobiliaristi che guadagnano decine di milioni degli affitti, per cui bisogna capire anche quanto fosse ingenua la pubblica amministrazione e la politica che l'ha appoggiata e quanto ci fosse la corruzione dietro, diciamocela tutta. Sì, io dico anche che c'è anche tanto pressapochismo e tanto conservatorismo, per cui alla fine si rimane nella situazione in cui si è, perché cambiare è faticoso. Questo ne parleremo con Carlo Cottarelli nei prossimi giorni, che è uscito con un libro proprio su ricordando cosa era emerso dal suo lavoro, Mr. Spending Review. E secondo me Gutgeld e Perotti dovrebbero partire proprio da lì. Questo libro di questa crisi della fiducia, secondo me, è un tema fondamentale. Cioè, siamo stati costretti a mettere una quantità di leggi infinite perché non ci possiamo fidare. La politica non si fida della dirigenza. Ma guardi che però è lo stesso principio per cui gli insegnanti protestano contro un dirigente, contro un preside con qualche potere in più, perché non si fidano. Cioè, tutti scrivono: metterà suo figlio, metterà l'amante, metterà quello che sta zitto. Ma Cristoforo Colombo, ci saranno anche dei dirigenti, dei presidi che hanno a cuore il merito? Perché sennò vuol dire che tu lavori in una struttura di cui non ti fidi. Secondo me sotto c'è dell'altro, c'è più malizia, non vogliamo scelte arbitrarie, facciamo gli scatti d'anzianità così siamo tutti belli che salvati. Perché diciamocela tutta, il merito in questo paese, c'è sempre il timore della scelta darwiniana, la selezione, vincerà il più forte. Oh, Darwin ha detto che vince la specie più adattiva, non la specie più forte, sennò saremo pieni di dinosauri in giro per i parchi italiani e sono morti, siamo pieni di scimmie che siamo noi, l'abbiamo già detto una volta, per cui anche sta vinto il velociraptor, voglio dire, non ha vinto più la selezione naturale, vuol dire che la specie che più si adatta al mutamento delle condizioni esterne vince. Allora le condizioni esterne sono mutate, chi non si adatta soccombe, e vale anche per tutto un ragionamento sui corpi intermedi che oggi ci potrebbe troppo in là. Mi dica i prossimi appuntamenti per concludere. Mocchi Sismondi, il ministro vi ha garantito che la legge diventerà legge, scusate, la riforma entro l'autunno, cioè, e poi anche lo stop ai doppioni di corpi di polizia, sono 5 corpi di polizia. Per quello che dice riguardo le scadenze, ha detto una cosa molto interessante, che se è vero è veramente straordinaria e rivoluzionaria, cioè che entro la fine dell'anno non solo diventa legge, ma entro la fine dell'anno sono approvati tutti i decreti delegati, perché noi il rischio grosso, certo, specie sulle leggi delega, che si fanno le leggi delega, poi i decreti delegati non si fanno e quindi queste leggi delega rimangono appese a principi generali e mai diventano realtà. Se veramente riusciamo a fare entro la fine dell'anno i 15 decreti delegati che sono previsti nel disegno di legge delega, abbiamo battuto un record. Stavolta gli applaudo, stavolta gli batto le mani. Sì, tra l'altro c'è anche un decreto importante, che è quello sulla mobilità, perché tutto questo poi si deve concretizzare nella possibilità di spostare, no, anche per necessità, mica perché uno demerita, ma perché per necessità della pubblica amministrazione. E sta per uscire, ha detto il ministro Madia, il decreto sui criteri per la mobilità. Verranno raccolte le eventuali osservazioni degli enti territoriali. Poi il ministro ha portato l'esempio di dipendenti con lo stesso punteggio. Verrà data priorità alla ricollocazione di chi ha la 104, quindi problemi di assistenza per non autosufficienti, bambini o più anzianità. Questo è giustissimo, questo avviene, diciamo, anche nel resto del mondo, però che poi ci debba essere la mobilità in tutti gli altri, sì, è lo stesso tema. Se è finita la pacchia per tutti, poi non si capisce perché il mondo della pubblica amministrazione non accetti quello che sta capitando nel mondo del privato, e appunto tutta la disoccupazione si sia scaricata lì. Buon lavoro al presidente del forum della pubblica amministrazione Carlo Mocchi Sismondi. Traffico. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Focus Economia. Minuti, allora 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Vabbè, potremmo andare avanti all'infinito. Qualcuno mi scrive: come vengono scelti i dirigenti? Chi li controlla? Sì, ma non se ne esce. Se, voglio dire, allora non scegliamo nulla, allora estraiamoli all'otto. E questa sarebbe la scuola che deve formare la pubblica amministrazione meritocratica? ci sarà qualcuno che li sceglie male, come avviene anche nel privato, ma se uno è responsabilizzato e risponde di una scuola che poi funziona male, ne risponderà agli ispettori. Guardi, il problema secondo me è che nella riforma della scuola il preside sceglie pochissimo. Io avrei fatto scegliere tutti i docenti, vediamo. Va bene, sono di un pressapochismo galattico, mi dica però perché evidentemente i più demagogici dei luoghi comuni sono insegnanti e dirigenti. Non mi sembra, abbiamo detto che ci sono insegnanti bravissimi e insegnanti che andranno penalizzati. Oppure ditemi dov'è la demagogia in questo. Non capisco, c'è uno scollamento con una parte del pubblico, no? Dov'è la demagogia nel dire che alcuni sono bravi vanno premiati e non vengono premiati, e dov'è la demagogia nel dire che alcuni che si assentano, hanno una cattiva qualità dell'insegnamento, vanno giudicati? Tutti a occuparsi degli insegnanti. Io vorrei occuparmi degli studenti per una volta tanto, e non sempre del corpo degli insegnanti. E essendo figlio di un insegnante posso anche sapere quanto sono importanti gli insegnanti, ma possiamo occuparci degli studenti e non degli insegnanti sempre? È vero che gli insegnanti votano, gli studenti no, quasi tutti. E i professori vanno universitari, siedono delle volte in Parlamento e via così. E infatti guardate i dati sui risultati PISA e delle nostre università e su quello che sta capitando alle iscrizioni universitarie, soprattutto in certe università baronali del sud. Non che non ce ne siano anche al nord, ma al sud diciamo eccelgono. Allora, dove andiamo? Andiamo, come si fa ad andare dalla scuola a Blatter? Vabbè, si va da un tema a un altro. Che sta succedendo alla FIFA? Stanno uscendo una marea di agenzie in questo momento. Allora, gli investigatori americani fanno sapere alla FBI che è solo l'inizio, non la fine. Il riferimento è agli arresti di oggi. Hanno chiesto l'estradizione di 9 funzionari della FIFA accusati di corruzione e associazione a delinquere. E lo ha detto lo stesso ministro alla giustizia americana Loretta Lynch, sottolineando che il numero uno della FIFA, Sepp Blatter, al momento non è sotto accusa. Io se fossi Blatter, questo al momento, ecco, il Dipartimento di Giustizia americano accusa l'ex vicepresidente della FIFA Jack Warner di aver chiesto una cifra, tra le altre cose, di 10 milioni di dollari in tangenti al governo del Sudafrica per i mondiali del 2010. L'accusa complessiva è che i dirigenti della FIFA arrestati a Zurigo si sarebbero intascati tangenti per 100 milioni di dollari in questi ultimi anni per i mondiali di questi ultimi anni, a partire appunto dal Sudafrica arrivando fino al Qatar. Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera. Tu già in un articolo di fine novembre facevi notare come quando in merito ai mondiali del Qatar motivazione con cui la FIFA aveva confermato l'assegnazione dei mondiali a Russia e Qatar per il 2018-2022 era la seguente: non c'è stata nessuna corruzione, bensì solo dei dubbi, che è una frase un po' ambigua. Sì, era stato... mi sembra che l'FBI abbia meno dubbi e più certezze, vai. Beh, c'è, sai, in questo momento una guerra politico-economica che si sta profilando tra le grandi potenze, Stati Uniti, India e Cina, per l'assegnazione dei mondiali 2026. E questo atto dell'FBI non mi sorprende, in quanto gli Stati Uniti nel 2010, quando sono state assegnate le edizioni in contemporanea di Russia 2018 e Qatar 2022, avevano rinunciato al 2018 perché ovviamente avevano ricevuto quasi la certezza di poter ospitare i mondiali del 2022. Invece in quelle votazioni a sorpresa vinse il Qatar. La FIFA, su spinta degli Stati Uniti, affidò un'inchiesta interna al proprio comitato esecutivo. Il PM, chiamiamolo così, era proprio un americano, che presentò un dossier ricco di prove che c'erano state delle tangenti. La FIFA di Blatter, che tra l'altro il 29 maggio dovrebbe essere eletto per il suo quinto mandato, al netto di quel al momento che ricordavi tu, e di fatto gli Stati Uniti non hanno accettato quell'archiviazione così frettolosa della FIFA, e il dossier è passato nelle mani dell'FBI, che evidentemente qualche elemento in più ce l'ha. Allora, a parte che Blatter la vedo dura che arrivi, comunque tutto è possibile, La FIFA ci ha sempre sospeso. Resta con noi, però, Marco, ne vorrei parlare dopo il GR24, perché qui in ballo ci sono centinaia di milioni di tangenti, ma a questo punto anche la richiesta di estradizione. Blatter, poi ascolteremo anche una frase del suo portavoce, ostenta un'invidiabile tranquillità. Vediamo se poi Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Marco Bellinazzo, Blatter potrà anche pensare di essere riconfermato. Vi faccio ascoltare cosa ha detto il portavoce della FIFA Walter De Gregorio sullo stato in cui Blatter, lo stato, insomma, l'umore di Blatter in questo momento dopo la richiesta dell'FBI di estradizione di 9 dirigenti della FIFA accusati di avere accettato dagli anni 90 in poi tangenti per 100 milioni di dollari che includono anche l'assegnazione dei mondiali di calcio in Sudafrica, Russia e Qatar. È molto calmo, sta osservando ciò che accade, è totalmente cooperativo con tutti. Sa che queste sono le conseguenze di ciò che abbiamo iniziato. Non si è mai pensato di posticipare né il congresso né le elezioni. Come ho già detto, una cosa non ha nulla a che fare con l'altra. I lavori quindi continuano come previsto. L'elezione si terrà nel giorno stabilito. Ripeto, non posso confermare i nomi. Non posso confermare quante persone sono state arrestate o sono sotto indagine. Posso solo ripetere quanto detto anche in passato dal Presidente, ossia che le Coppe del Mondo 2018 e 2022 si terranno in Russia e Qatar. Oh, Marco Bellinazzo, queste dichiarazioni le ha fatte il portavoce della FIFA prima che, è successo mezz'ora fa, le agenzie battessero le altre dichiarazioni dell'FBI, del capo dell'FBI James Comey, che ha detto: attenzione, questo è solo l'inizio, le indagini vanno avanti, nessuno è al di sopra della legge, e specificasse così adesso non c'è bisogno nemmeno della conferma della FIFA che sono 9 i funzionari per cui l'FBI ha chiesto l'estradizione. È la fine dell'era Blatter? Sinceramente non te lo so dire, perché tra due giorni, il 29 maggio, c'è questa elezione per il suo quinto mandato, e di fatto tutti gli altri candidati, compreso un giocatore come Figo, si sono ritirati denunciando l'impossibilità di battere appunto Joseph Blatter, che conta sull'appoggio delle federazioni africane e asiatiche, e quindi un voto compatto che mette l'Europa in minoranza, tant'è vero che Michel Platini, che era l'altro grande candidato, non si è nemmeno presentato. C'è ora un principe giordano che lo sfida, ma sembra più, insomma, un candidato, come dire, che serve giusto a giustificare la democraticità, tra virgolette, del voto, piuttosto che una vera alternativa al regime Blatter. Sì, diciamo che può valere anche per la FIFA e Blatter quello che diciamo per, così ci ricolleghiamo al tema di prima, delle volte per certi ruoli apicali nella pubblica amministrazione, cioè quando stai troppo in un posto le magagne arrivano. Scrive un ascoltatore: Blatter passerà dal quinto mandato elettorale al primo mandato d'arresto. Non lo so, la battuta c'è tutta, però non lo sappiamo. Dai, ancora le critiche sulla gestione di Blatter della FIFA non sono nuove, va detto assolutamente. Che è anni che se ne parla, ma ripeto, un conto è parlarne, un conto è ipotizzare, o come tu scrivevi appunto avere dei dubbi, come dicevano gli ispettori sull'assegnazione mondiale a Russia e Qatar, un conto che l'FBI ti arresti 9 funzionari apicali. Però ora è cambiato, Sebastiano, lo scenario del calcio, nel senso che due colossi come Cina e India, che erano rimasti ai margini, hanno capito che il calcio è un grande veicolo politico ed economico. Non a caso le tante voci di cordate cinesi interessate, certo, al Milan. Il primo ministro, cioè il Presidente della Repubblica cinese, ha avviato una riforma basata sul calcio, e il suo obiettivo appunto è ospitare i mondiali del 2026. La stessa cosa sta accadendo in India, e questo apre scenari di politica ma a livello alto, insomma, che cambiano un po' le carte in tavola, e non vorrei che questa indagine dell'FBI fosse proprio un messaggio chiaro per impedire a Blatter di fare giochini con Cina. Stavo arrivando lì, la coincidenza temporale è oggettivamente un po' sospetta. Due giorni prima dell'elezione ti arrestano e chiedono l'estradizione di 9 dirigenti. Insomma, uno può credere alle coincidenze, ma di solito le coincidenze in questi casi non sono mai coincidenze. Grazie, no. Grazie a Marco Bellinazzi del Sole 24 Ore. La borsa adesso con una chiusura un più 2,30% per Milano. Are you with me? Are you with me? Come dicevamo già in apertura, tutte positive oggi le banche, anche il Monte dei Paschi per via della bozza d'accordo sulla Grecia. Sono uscite altre agenzie in questi minuti proprio sulla Grecia, in cui il governo di Atene sostiene che si sta arrivando, si è vicini a un accordo. Tsipras lo dice lo stesso presidente, l'accordo è vicino, siamo alle battute finali, vedremo. La borsa ci scommette: Monte dei Paschi più 4, Ubibanca più 3,70, Unicredit più 3,70, Mediobanca più 3,40 come Intesa San Paolo, il 2,90 lo guadagna la Pop Milano e la Popolare Emilia Romagna. Tra le banche citiamo anche il Banco Popolare più 2,20%. Visto che ci troviamo in Monte dei Paschi, sui diritti oggi guadagna l'1,44%. E poi la vicenda positiva delle generali, che oggi, illustrando il piano industriale a Londra, hanno previsto 5 miliardi di dividendi cumulati entro la fine del 2018, flussi netti di cassa per 7 miliardi, risparmi per mezzo miliardo, oltre al miliardo di risparmi già previsto nel 2016, e 1 miliardo e 225 milioni di investimenti totali. La miglior difesa contro le scalate è creare valore, ha detto l'amministratore delegato dei generali Mario Greco nel corso dell'Investor Day. In questi anni abbiamo creato molto valore, la borsa ci crede e premia, il titolo generali più 2,70%. Poi bene anche un titolo come Luxottica, oggi c'entra poco il lusso in senso stretto, del vecchio il patron di Luxottica ha ipotizzato maggiori investimenti in Asia, più 2,41%, ricordiamoci che scadono inizio, vengono dimezzati a inizio giugno molti dei dazi sul lusso anche europeo. In Cina invece l'unica banca che è negativa è la Cassa di Risparmio di Genova, perde il 3,13% negativo in maniera visibile. Perché? Perché le indiscrezioni sull'aumento di capitale vedono un aumento di capitale a forte sconto. Ancora in aggiunta su questo, Finmeccanica, che alla fine resta il miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, più 4,1%, dopo che il Sole 24 Ore ha ipotizzato la possibile vendita di Avio Space. Migliori e peggiori in assoluto, di negativo oggi non c'è nulla, Tenaris meno 0,07, ma è poca cosa. Dicevo, migliori e peggiori in assoluto, Bio2 più 22%, V-Ray Communication più 8%, Molmed più 6,80, Geox più 4,90, Fedon più 4,50. Fronte opposto invece per Microspore meno 15%, Soft Strategy meno 4,20%, Edes meno 3,90%. E visto che parlavamo di Luxottica e dell'export, dopo il traffico, come annunciato, ci occuperemo di questo indice che la SACE sta presentando in questi minuti alla borsa italiana, ed è un indice per capire quali siano i paesi più promettenti per il nostro export. Ripeto, non è un indice basato solo sulla crescita economica, altrimenti vincerebbero alla grande tutte le economie emergenti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Traffico. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta Focus Economia. Questa stavolta non è la FIFA che ha Blatter, ma Blatter che è la FIFA. Va bene anche questa, un po' più una freddura rispetto a quella precedente. Allora, il commercio con l'estero. Commentavamo due giorni fa i segnali di aprile tutti promettenti. L'export fuori dall'Europa per quello che riguarda l'Italia ha fatto un più 12%, con un vero e proprio boom verso Stati Uniti e Cina. La Russia resta invece il grande assente per via dell'embargo, meno 29%. Il surplus, quindi la differenza tra export e import ad aprile, è stato positivo per 2,6 miliardi. Al netto della componente energetica sarebbe positivo di 5,6, è quasi un miliardo in più rispetto al saldo commerciale positivo dell'aprile 2014, 2 miliardi e 6 quest'anno, 1 miliardo e 640 milioni l'anno scorso. E quindi tutti gli elementi vanno nella stessa direzione di un altro anno da record per l'export dopo quello che si è chiuso da record nel 2014. Oggi SACE, che è il gruppo assicurativo finanziario controllato al 100% dalla Cassa Depositi e Prestiti, ha presentato il rapporto annuale sull'export, a cui si affianca Export Map, cioè un indicatore, uno strumento per far capire alle aziende quali siano i mercati più promettenti, ma non solo come crescita complessiva del PIL. E allora, ringraziando per avere in collegamento l'amministratore delegato Alessandro Castellano della SACE, le chiedo innanzitutto quali siano i settori merceologici che stanno dando maggiori soddisfazioni all'export italiano. Castellano. Sulla fascia alta di gamma abbiamo visto una crescita che copre praticamente tutti i settori merceologici, pertanto anche i settori merceologici che avevano sofferto di più nell'alto di gamma, cioè per le società che si sono riuscite a riposizionare in termini qualitativi, vediamo un aumento notevole delle loro capacità di esportazione e di investimento. Ecco, mi dica un'altra cosa, dottor Castellano, per inciso le reti di distribuzione, sappiamo che questo paese ha da sempre una storica debolezza nell'export sui canali distributivi, perché non abbiamo le grandi catene anche nella distribuzione alimentare, penso ai francesi su tutto, e poi soprattutto avendo gruppi piccoli oppure le multinazionali tascabili, avevamo un problema di costi della rete distributiva quando tu devi affrontare un paese che non è magari la Germania o la Francia, ma si chiama Cina o India. Su questo intanto vorrei capire se si sono un po' rafforzate queste reti di distribuzione, e dall'altro vorrei anche capire se l'e-commerce potrebbe essere un modo per supplire a questa storica e cronica debolezza del nostro export. Diciamo, mi sembra naturale poter dire che la digitalizzazione, l'e-commerce e le altre forme di distribuzione, direi con non reti fisiche, sta avendo uno sviluppo molto significativo, come dimostrano i dati incrementali negli Stati Uniti che sono stati registrati dalle esportazioni italiane. È chiaro che questo tipo di attività è anche funzione del grado di evoluzione del mercato, per tante ragioni, per quello che riguarda la sicurezza dei pagamenti, per quello che riguarda i trasporti, la logistica, però diciamo che stiamo vedendo una registrazione molto significativa di paesi emergenti verso questo tipo di attività. Pensiamo anche alle reti, e cioè ci sono paesi che saltano, no, tradizionalmente la cosa più banale è la rete fissa, e vanno direttamente alle reti mobili. E quindi anche su questo, nell'arco di 10 anni, un effetto dirompente sulle quote di mercato. Veniamo, vedo molti messaggi su questo, dai, all'Export Opportunity Index. Mi dica i primi 10, se ci arriviamo, come, se ho ben capito, non dato già acquisito, ma come opportunità future. Se vuole raccontarci anche una battuta come avete elaborato questo indice, così chiariamo anche i criteri che avete utilizzato. Ma guardi, questo indice è un indice che, diciamo, pondera quello che è, come diceva, ricordava il premio Nobel dato l'anno scorso in economia, non è il valore reale di oggi, ma è il valore percepito in termini prospettici. E per cui abbiamo inserito una serie di algoritmi che misurano la quantità di export che noi effettuiamo in questo paese, le capacità di crescita di questo paese, il posizionamento di questo paese in riferimento a certe filiere dove ci sentiamo più forti, e naturalmente il potenziale di crescita stesso di questi tipi di settori in quel paese. Poi, incrociando in modo empirico queste quattro variabili, abbiamo creato questo indicatore, con un indicatore che poi dovrà essere affinato in vari settori per vari comparti merceologici, e che crediamo possa essere una bussola utile per i nostri esportatori per rendere una discussione attiva su quello che noi pensiamo e dobbiamo fare. Tendo a precisare che un aspetto importante che troveremo nel mondo proprio perché dicevo ci saranno rischi, è che la diversificazione sarà un'arma fondamentale per poter naturalmente assicurarsi una crescita sicura. Anche... non so se lei mi vuol chiedere dei numeri, no, dei numeri o dei nomi specifici, e glieli faccio se me li chiede. Sì, come no, era questo a cui volevo arrivare, diversificazione anche per mettersi a riparo dalle eventuali dei rischi geopolitici a livello mondiale. Comunque, andiamo alla classifica, visto che ne abbiamo una poco invidiabile sugli sprechi della pubblica amministrazione ogni venerdì, questa è una classifica invece che ci fa più piacere. Al primo posto chi troviamo come migliori opportunità secondo il vostro indice Export Opportunity? Guardi, questo indice dobbiamo però precisare che non è un indice quantitativo, perché sull'indice quantitativo sono gli Stati Uniti in questo momento. Certo. Se guardiamo però altri indici, vediamo che c'è il Regno Unito, l'Arabia Saudita, gli Emirati, la Germania, l'Algeria, Corea del Sud, Qatar, Australia e Indonesia. Questi sono, diciamo, i paesi dove, secondo l'algoritmi o gli algoritmi che sono stati elaborati, vediamo, diciamo, le opportunità maggiori per il nostro export. Ecco, nei facendo scusi anche una considerazione che delle volte diciamo non viene resa giustizia totalmente di quello che vediamo sui giornali. La Polonia, che oggi non credo diciamo proverebbe immediata percezione di pelle, è un paese dove esportiamo quanto esportiamo in Russia. Però. Quindi al primo posto l'Arabia Saudita, che ha ottenuto 85 nel vostro punteggio che va da 1 a 100, poi Regno Unito, Emirati Arabi, Germania con 79 e 78 punti, Belgio 77, Algeria 76, Corea del Sud 75, Australia, Qatar, Cina e Paesi Bassi 74, Stati Uniti 72. Questo come opportunità, non come valori e giro d'affari. Che cosa ha decretato, così facciamo capire a tutti, l'Arabia Saudita e subito dopo la Gran Bretagna come i due paesi più alti nel punteggio? Che, come le dicevo, in relazione al posizionamento attuale che noi abbiamo, i prodotti che possiamo offrire, la quota di export, questi paesi sono i paesi dove probabilmente la crescita sembra essere più efficace, tenendo presente che due sono i punti di attenzione. Quando la quota di mercato dell'export italiano è o troppo bassa o troppo alta, questi due indicatori segnalano un punto di attenzione, perché se è troppo alta vuol dire che già abbiamo una quota di mercato che è difficilmente naturalmente migliorabile. Quando è troppo bassa vuol dire che le nostre merci o la crescita di quel paese in relazione alle nostre capacità di esportare è naturalmente difficile. Ecco, quello che, per concludere, dottor Castellano, quello che emerge chiaramente è che ci sono delle grandi prospettive nelle economie emergenti, nelle economie distanti, però se la gioca bene anche l'Europa come opportunità, perché dicevo, dopo il Regno Unito ci sono gli Emirati Arabi, ma c'è anche la Germania a pari punti, segue il Belgio attaccato all'Algeria, sentiamo prima il Presidente Renzi, la Corea del Sud è vicinissima all'Australia, praticamente testa a testa, al Qatar, alla Cina, ma anche all'Olanda. E poi, come dire, non è che si possa ragionare solo in maniera così manichea, o tutto fuori dall'Europa o i vecchi mercati che conoscevamo. L'avevo richiamato prima esattamente questa, cioè bisogna andare molto meno di stomaco e più facendo una valutazione attenta, considerando tutta una serie di posizioni che sono relative anche poi all'assetto e alla specificità dell'azienda, che ha le sue peculiarità in relazione al comparto merceologico di dove opera. Però ricordiamoci anche che alcuni paesi europei sono paesi, in particolare il Belgio, dove c'è un transito notevole per diciamo anche benefici, chiamiamoli, fiscali, e la Germania è perché, ricordiamo un nome, la Brembo equipaggia i freni di tutte le macchine di lusso che vengono prodotte in Germania, per cui noi abbiamo anche e siamo attaccati naturalmente nel supply chain con tutta una serie di prodotti, sì, certo, a paesi come la Germania, che naturalmente sono dei nostri partner oltre che dei nostri concorrenti, perché lì c'è il tema non solo di esportare il bene finale, ma di essere nella catena del valore, la supply chain, la catena di fornitura, ed essere importantissimi fornitori di paesi che a loro volta poi esportano moltissimo. Grazie, e poi vedremo come rimodificherete questo indice. Grazie al ministro legato di SACE Alessandro Castellano. Grazie. Mi fanno notare che non ho dato gli indici europei e americani, avete ragione, statunitensi per essere più precisi, altra correzione che ricevo. Allora, Parigi ha chiuso con un più 2%, Francoforte con un più 1,26%,